Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Io non sono razzista, ma mi stanno sulle balle quelli che vogliono impedire a tutti i costi che la gente possa usare liberamente i termini come negro, frocio, ricchione, terrone, polentone, ciccione. Poiché ritengo che bandire le parole mi dia semplicemente la forza che non meritano. E ovviamente dipende sempre dal contesto. Inoltre ci sono già le leggi, se qualcuno si sente offeso può tranquillamente andare a denunciare e far valere le proprie ragioni davanti a un tribunale. Siamo in democrazia, siamo in Italia. Tutte queste buffonate politicamente corrette mi hanno veramente rotto le balle. Che fatica! Calma, andare avanti così, in questo mondo di merda, no. Si fa fatica. Calma. Vuoi che io non dica merda? La sostituisco con un'altra parola. Vuoi che... Se a te non piace... Allora, se a uno dà fastidio che tu usi una parola, ok? Ne usi un'altra. Sì. Cioè, se a te, se io ti dico, ti dà fastidio questa parola, tu mi rispondi sì, e io te la dico, io sono uno stronzo. A te dà fastidio che io dica stronzo? Sì. Se ti do dello stronzo ti dà fastidio? Ne uso un'altra, perché abbiamo un dizionario con 70 miliardi di parole, adesso non so quante siano, sono tantissime, più di quelle che ci possiamo permettere. Più di quelle che usiamo, tra l'altro. Più di quelle che potremmo ricordarci, sì. E quindi da oggi usiamo altre parole. Va bene. Ok, da oggi noi sostituiamo, noi da oggi cominciamo con gaglioffo, sagittabondo, gran ciporro. Esiste, cioè, sagittabondo? Esiste, è bellissimo. Uno che scocca sguardi che fanno innamorare. Ah, che bello. È bellissimo. Ma è bellissima questa parola. È una parola che è un capolavoro. E noi dobbiamo stare qua, capito, a litigare su quattro parole. Ah, sì. Scusatemi, del... Ma sì, cazzo, dai, possiamo su. Dirlo. Sì. È un gran ciporro, cioè è un errore madornale. No, esiste gran ciporro? È un errore madornale. Sembra gran ciporro. Cioè, vuol dire errore madornale? Sì. No, vabbè, cioè, ma da oggi noi qua dobbiamo rifare la storia. Cioè, così gran si fa? Ciporro e sagittabondo. Li ho scritti adesso. Capito? Sono gaglioffo. Stupendi. Gaglioffo è bellissimo. Gaglioffo sembra uno goffo, e invece no, è un briccone. No, gaglioffo si illude. Sì, lo conoscevo, ma sagittabondo e graciporro. Gran ciporro. Mamma mia. Capito? È un errore. Allora, no, di questo audio che ci ha mandato un nostro ascoltatore sul nostro gruppo Telegram Off Topic_24, la cosa che mi ha colpito è appunto la frase "il politically correct ci ha rotto le palle". Questa è la posizione del nostro ascoltatore. Sì, perché il tema di oggi è "io non sono razzista, ma". Esatto, il luogo comune di oggi è questo, no? Allora abbiamo sollecitato i nostri ascoltatori e ci hanno detto questa cosa. Lui, Luca, lo chiamiamo, sì, Luca, no? Esatto. Luca ci ha detto che gli ha rotto le palle il politically correct. Però io voglio dire, ovviamente è la sua opinione e io la mia, però voglio dire, ma a voi che problema vi dà il politically correct? Perché vedo che in questo periodo in cui molti usano parole che non si devono usare perché sono offensive rispetto a certe categorie, altri invece dicono però non si può più usare niente, il politically correct ci ha rotto le balle. Ma perché vi ha rotto le balle il politically correct? Che non esiste, se oggi, non esiste il politicamente corretto. Allora, è vero, fino a 20 anni fa, 30 anni fa, mi è venuto in mente qualcuno, no, non, Harper Lee, come si chiama? Il buio oltre la siepe. Benissimo, 20 anni fa, se tu andavi a prendere l'edizione della Feltrinelli, in quarta di copertina Feltrinelli, trovavi la parola negro all'interno della spiegazione della vicenda, certo. Ok, perché veniva usata per certi contesti, come ha detto il nostro ascoltatore. Però se in 20 anni, se in 30 anni la sensibilità civile è cambiata, Belin, che problema ti dà? Belin è molto divertente. Cambia, ma infatti che problema ti dà? Il suffisso "ma" indica che noi non siamo disposti a cambiare. Cioè, esatto. Se uno dà fastidio, noi cambiamo. Posso dire, non è soltanto una questione di cambiamento o di parole, è di economia di pensiero. Cioè non abbiamo più la voglia di sforzarci nel pensare in maniera più complessa e quindi tornare a quello che diceva Beppe, a utilizzare un dizionario un po' più ampio, no? Vi faccio una proposta, posso? Sì, certo. Allora, la cura è questa. Allora, non sono razzista, ma quando arrivi a dire questa frase, la soluzione che propongo è aggiungere cose a caso, tipo "non sono razzista, ma che bellezza". "Non sono razzista, mamma". Mamma. "Non sono razzista, Mario". Siamo davanti Mario. Oppure "non sono razzista, ma parliamo un po' di astrofisica". Cioè, facciamo qualcosa di diverso dal fatto di parlare di magari mi sembra un bel antidoto. Tra l'altro, la cosa che smonta subito questo luogo comune, cioè il fatto che uno dica non sono razzista, ma è che la doppia negazione in italiano, quindi non e ma, che è avversativo, denota il fatto che tu sei razzista nel momento in cui lo stai dicendo. Sì, questa è proprio una questione di punta di fioretto. Poi di solito una dinamica che mi colpisce sempre è che quando si parla di questa vicenda viene fuori poi la persona che ti fa tutta una pappardella, un panegirico, e bili bili e blu blu e il ma però e il contesto. Allora raga, è molto semplice. Il razzismo vuol dire che, uno, penso che ci siano razze diverse da una persona all'altra. Certo. Due, che ogni razza, come mi hai spiegato tu all'inizio della trasmissione prima, ha delle sue categorie. E tre, il fatto che una razza è superiore all'altra. Sono tre minchiate una dietro l'altra. Sì. Quindi sei razzista? Sì o no? Cioè tu pensi queste tre minchiate in fila? Sì o no? O no. Se no, si può parlare del fatto che ti dà fastidio quando certe persone lasciano un'abitudine, un uso, un'abitudine. Allora quello è certo. No, è vero, è vero. La vicenda, la questione non è soltanto una questione di parole, ma anche una questione di prospettive. Cioè noi pensiamo sempre, nel momento in cui agiamo un'azione razzista o facciamo qualcosa, diciamo qualcosa di razzista, che non possa mai riguardare noi stessi. Invece, come ci ricordano i Griffin, gli italiani sono ben spesso anche oggetto di razzismo. Scusi, Babbit a Boopy? Che cosa? Peter, what are you doing? Speaking Italian. Babbit a Boopy? Tu sei un pazzo, va bene da qui. Sono stanco di te, ti do un pugno alla testa. Ti uccido con questa carne. Ti uccido con questa carne. Sì. Mi ha sempre colpito. Questo è un estratto dei Griffin in lingua originale. Quindi sì. negli Stati Uniti è andato in onda così. Sì. Cioè per gli americani e per gli autori dei Griffin, questi sono gli italiani che fanno bibu babi ba. E tra l'altro c'era anche molta gestualità, ovviamente. Quindi noi, anche noi, vittime del stereotipi e del razzismo, mafia, esatto. Pizza, mandolino, mandolino, chi cazzo suona il mandolino? No, nessuno suona il mandolino. Simone Tangolo. Nessun Simone italiano. Tangolo è l'unico che io conosco che suona il mandolino. Ecco una cosa, c'era una mia amica olandese che un tempo mi diceva: voi italiani negli anni 90 vi chiamavamo gli Invicta, perché eravate solo quelli con lo zainetto Invicta, ovviamente. Fantastico. Tutti in Olanda. Tu cosa avevi, il Quasar? No, avevo l'Invicta. Seven io. Oh mio Dio, sì. È l'inizio anch'io di una storia triste, Riccardo. Anch'io avevo il Seven. Va a scuola col Seven. Just wanna make you feel okay, but all you do is look the other way. I can't tell you how much I wish I didn't wanna stay. I just kinda wish you. E questa è Billie Eilish, un personaggio molto strano della musica contemporanea, anche lei bullizzata, insomma messa all'angolo spesso, come ha raccontato nella sua biografia. E questa canzone si chiama Wish You Were Gay ed è divertente perché è esattamente il contrario di quello che si sente dire, perché non sono razzista ma, io non sono omofobo ma, certo. Preferirei a un figlio frocio, ho molti amici gay, certo. però esatto. Invece qua dice: vorrei che speravo fossi gay, cioè proprio è, ma poi per strada quelle cose lì no, non dai. Si fanno. Allora, per parlare di questo luogo comune, come sempre abbiamo un ospite e lo introduciamo con un nome. Il suo è Insaf Di Massi. Ciao Insaf. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, Insaf, tu sei una studentessa italo-tunisina che ha 23 anni, studia a Bologna. E se ci puoi dire che cosa mangi tra il couscous e il tortellino, così iniziamo subito a togliere la battaglia in cucina. Esatto, la battaglia in cucina. Questa è domanda poliana. Ovviamente ci sta benissimo una crescentina. Ah, vedi, cioè è più italiana di noi, ragazzi. È una cosa incredibile. C'è nulla da fare. Bisogna scardinare veramente questi luoghi comuni. Allora, forse abbiamo mangiato più kebab noi che lei. Insaf, no. Io ieri sera ho mangiato il kebab. Cos'hai mangiato ieri sera tu, esatto. Insaf? Ieri sera ho mangiato un timballo di farro. Mamma capito? Mia, cioè... Oppure salutista, ragazzi. Ecco. Allora, Insaf, tu sei stata protagonista di un documentario che si chiama Il nostro paese di Matteo Parisini, che è andato in onda su Rai 3, che racconta la storia di 8 cittadine. Io uso questo termine, anche se la cittadinanza, adesso lo scopriremo, tu non ce l'hai ancora. Cittadine italiane cresciute in Italia, non nate in Italia, cresciute in Italia e che affrontano una vita un po' così, spericolata, mettiamola citando Vasco. Sì, esatto, esatto. Sono stata una delle protagoniste di questo documentario proprio per testimoniare con le nostre vite, in realtà normalissime, molto comuni, molto più simili rispetto a quel che si creda alla vita di tutti gli italiani in Italia, per dimostrare che effettivamente le origini contano poi il giusto per definire la nostra identità. Perché se si nasce e si cresce in un paese, si è cittadini di quel paese. Allora, ricordiamo la tua storia. Tu sei arrivata in Italia dalla Tunisia a 9 mesi, giusto? Esattamente. Da genitori tunisini? Sì, entrambi tunisini. Ok, e poi cosa è successo? Poi, niente, ho vissuto la mia vita, ho studiato, ho fatto dall'asilo all'università qui in Italia, qua sono cresciuta, qua appunto mi sto per laureare a breve. E, laureare in scienze politiche, giusto? Scienze politiche e relazioni internazionali, esatto. E quando io compio 18 anni e 20 giorni, mio padre ottiene la cittadinanza italiana e in questa maniera anche tutta la mia famiglia riesce a diventare italiana, perché secondo la legge attuale un immigrato che diventa cittadino italiano può trasmettere la cittadinanza anche ai figli minorenni. Appunto, le mie sorelle erano minorenni, loro diventano cittadine italiane, io che ero maggiorenne da 20 giorni resto esclusa dalla trasmissione della cittadinanza. Che sfiga! Che sfiga! Non lo so. Giorni. Quindi tu sostanzialmente hai due sorelle che sono italiane e, sì, e anche tunisine, presumo, hanno la cittadinanza anche tunisina. Sì, doppia cittadinanza. Doppia cittadinanza, esatto. E invece tu sei tunisina. Esatto, esattamente. Ok, quindi famiglia che è giochi senza frontiere praticamente. Esatto. Tra l'altro, cosa molto divertente, pure il mio gatto ha il passaporto italiano. Ma come? Scusami, nel senso che il patentino veterinario attesta che è italiano? Eh sì, certo, basta un vaccino per il mio gatto, gli fanno il tesserino, il passaportino e può viaggiare ovunque. E cosa vota? E cosa vota il tuo gatto? Sarà un leghista, dai, minimo, dai, ti prego. È cresciuto nel nord, sicuramente mezzo leghista. Ah, ecco, cioè il gatto leghista, perfetto. Ma il luogo comune, quindi tu adesso stai facendo tutta la procedura per avere la cittadinanza. In realtà hai 23 anni, quindi a 18 anni tu potevi richiederla, giusto? Allora, io potevo richiederla a 18 anni, è vero, però io non essendo nata in Italia non ho quella finestra temporale che va dai 18 ai 19 anni per richiederla, escludendo un requisito molto importante che mette in difficoltà la maggior parte delle persone che si trovano nella mia condizione, ovvero il requisito del reddito. Perché nel momento in cui non la tieni tramite un genitore, poi io devo ricominciare l'iter per conto mio. E i requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza sono 10 anni di residenza continuativa, io ne ho 23, quindi sono pochissimo. La fedina penale pulita, la mia fedina penale è immacolata, quindi anche sotto questo punto di vista sono a posto. Cosa che Salmetti non può dire, scusa, uno dei conduttori. No, non è che sono illazioni, però. E ovviamente il requisito del reddito. Ah, cioè devi avere un lavoro e avere una busta paga? Un lavoro che sia costante almeno per 3 anni. Però, scusami, Insaf, ma non sei una studentessa? Non puoi dire, ragazzi, ma io sono iscritta all'università, sto studiando, non sono una lavoratrice, no? Ma guarda, è proprio quello l'intento del documentario ed è quella la legge che vorremmo cambiare. Dire a tutti quanti, guardate che a una certa età non si pensa a lavorare, a produrre soldi, ma si pensa a studiare. Il motivo per cui si vorrebbe avere uno ius culture in Italia. Certo, sì, ma al di là dello ius culture, però adesso, lasciando stare i grossi termini che poi dopo vengono vampirizzati dal giornalismo e utilizzati per la propaganda. Oggi. Bravo Ale. Sì, allora, lasciando stare ius culture, ius sanguine, allora, sinceramente, ma se uno è da 23 anni in Italia, ok? Ha la fedina penale pulita, 23 anni in Italia, sta studiando perché ha 23 anni, si sta laureando in scienze politiche a Bologna, ma sarà mai considerabile come dire un requisito sufficiente per richiedere? Perché voglio dire, o sei uno studente o sei un lavoratore. Allora, questa è la cosa che mi manda i matti, al di là delle ius culture X, Y e Z, sei iscritta all'università, sei una studentessa, no? Tra l'altro neanche l'università della vita, no, l'università della vita, cioè. Esatto. Che poi dopo, esatto, trovi su Facebook. Poi c'è, bravo, c'è gente iscritta all'università della vita che invece ha la cittadinanza. Ha capito? Esatto. Ma maggior ragione, perché io ho 50 anni che no, vivo qua. No, Insaf. Io propongo di andare in Parlamento e di fare questo semplice discorso così banale, ma così appunto logico. Okay. Il punto è proprio questo. Io tra l'altro lavoro pure, perché per pagarmi gli studi faccio la cameriera. Appunto. Ma non ho abbastanza soldi, non sono abbastanza ricca per lo Stato. E non è un ragionamento che sta in piedi. Cosa che invece Suarez invece è riuscito probabilmente a fare. Probabilmente, esatto. Perché bisogna. Apriamo un portone, sfondiamo un portone. È chiaro che evidentemente non c'è tanto un problema di reddito o non reddito, quanto più esistono cittadini di serie A, cittadini di serie B. Uno Suarez, calciatore, ricco, famoso, ce la fa ad ottenere la cittadinanza in mezz'ora. Noi che siamo nati e cresciuti in Italia, invece la cittadinanza non ce la danno, anzi, aumentano addirittura i tempi di attesa. Tra l'altro, una cosa che mi viene in mente, scusami, ma tu mi viene in mente tutti gli studenti dalla tua età, che sono già italiani, hanno già l'ansia, suppongo che si dicano a loro stessi, una volta, un giorno poi mi laureerò, però non troverò lavoro. Quindi tu hai due ansie, una devi finire l'università, anzi tre ne hai, due devi trovarti un lavoro, che in Italia è un inferno, ok? Tre, e poi dopo, esatto, tre non sono neanche cittadina italiana, quindi non so, è un insieme di stress che una donna come te, secondo me, non deve vivere nel 2020 in un paese civile occidentale. Senza cittadinanza italiana ho ancora meno possibilità di trovare lavoro, perché molti lavori sono riservati ai cittadini italiani e io, laureandomi e studiando in un certo ambito, non avrò questa possibilità, quindi certo, sono anche esclusa dalla possibilità di partecipare a un certo tipo di lavoro. E questi sono i limiti ovviamente legati alla cittadinanza. Torniamo un attimo al nostro luogo comune, che è: non sono razzista, ma ti è mai capitato di sentirtelo dire, e soprattutto che effetto ti ha fatto? Oddio, allora, direttamente con me le persone non si sono permesse mai più di tanto di dirmi: guarda, io non sono razzista nei tuoi confronti, però diciamo che ci sono quelle frasi che sono simili, non è esplicitamente io non sono razzista, ma sono tante cose simili. Per esempio, a me una cosa simile è sembrata un po' l'uscita di un mio professore all'università, che dopo aver fatto un esame di political philosophy, mi ha chiesto se volessi fare ovviamente l'esame in inglese e in italiano, faccio l'esame in inglese, poi ci andiamo a fare delle chiacchiere perché stavamo parlando di un tema che interessava dopo avermi dato il voto ovviamente, eccetera, e ovviamente continuiamo a chiacchierare in italiano. Alla fine, insomma, della discussione, eccetera, il professore si ferma e mi dice: comunque signorina, complimenti, perché parla davvero bene l'italiano per essere tunisina. Ma come? Guardate, il suo professore, io sono qua da 23 anni, sarebbe preoccupante il contrario, sinceramente. E lui cosa ha risposto? Lui fa: sì, ma io non intendevo mica. Ecco, perché poi quando lo sta nel pensiero razzista, sale la vergogna un po', no? Cioè, però in quel caso non devi aggredire, secondo me. Cioè, noi dobbiamo sbagliamo sì, esatto, anche noi nell'aggressione. Bravo. Cioè, quando becchiamo uno in fallo, in quel momento noi dovremmo dire: guarda, tranquillo amico mio, è successo anche a me, anch'io dico un sacco di cazzate, sì, tutti i giorni, certo, mi è capitato anche di dirla, vai tranquillo, dai, è andata così, no? Succede, taralluce vino un po'. D'accordissimo con te, sono d'accordissimo. Ma poi ho letto un po' di interviste, la cosa divertente è che quando tu torni in Tunisia in realtà non vieni riconosciuta come tunisina dai tuoi parenti, da tua nonna in particolare. La prima mia nonna, sì, perché ovviamente appunto io, essendo cresciuta in Italia, parlo ovviamente l'arabo, ne sono anche molto fiera, ma parlo un tunisino con un accento molto italiano. Quindi se qua, quando si scimmiotta l'immigrato, si dice io non parlo italiano, io sono la stessa versione, la versione araba. Senti, Saf, allora, noi siamo tre maschi, bianchi, eterosessuali e del nord Italia. Cattolici a nostro discapito. Io ho battezzato, ma non credente né praticante. Neanch'io. Okay. Insomma, ci sentiamo un'egemonia, ok? Ci sentiamo a disagio. Il mondo è a nostra somiglianza, diciamo. Esatto, tu invece sei una donna, vieni dalla Tunisia, eccetera. Discriminaci un po' tu, dai. Fai discriminazione sui nostri confronti. Dai, togliti qualche sassolino. Attaccaci, dici qualcosa di... Vai. Di... Sto anche guardando su Twitch, quindi potrei anche fare delle discriminazioni fisiche. Esatto, vai. Fai del body shaming, ti prego. Vai, ti prego. No, dai, body shaming non mi piace. No, non è bello. Però... non mi vengono le cattiverie gratis. Non sappiamo. Insulta la mia maglietta gialla. Cosa? La tua maglietta gialla è imbarazzante. Pazzesco, era. Oppure di solito si dice che i bianchi hanno un odore, non so, acido. Non lo esatto, so. Cosa noi sono? Siamo. Ma poi che. Di latte rancido. Sai cosa si dice dei bianchi? Che sono razzisti. Bravo. No, siamo razzisti. Però siamo tutti ricchi uguali, quindi alla fine. Siamo tutti. Ma infatti, ricchi. Avete guadagnato punti. Beh, hai detto una cosa preziosa che vorrei aprire. Allora, Umberto Eco, un po' di anni fa già, scriveva ancora: l'intolleranza più tremenda è quella dei poveri, che sono le prime vittime della differenza. Cioè lui riconduceva alla ricchezza, ed è normale. Cioè, se uno arriva dall'estero con dei grandi capitali, secondo voi lo fermano da qualche parte? Ma no! No! Gli mettono un tappeto rosso e gli dicono: benvenuto, venga con noi. Senti, Insaf, noi abbiamo una redazione allargata, sì, composta anche da ascoltatori che ci mandano contributi, domande e quant'altro, sia su Twitch che su Telegram e su Facebook. C'è un suggerimento che ci dà un ascoltatore e che finisce anche, che secondo me, con un suggerimento basilare per questa puntata. Le persone non accettano il diverso perché credono che tutti coloro che li circondano debbano comportarsi come i propri canoni. Nel senso, io sono etero, tutti gli altri devono essere etero. Io sono bianco, tutti gli altri devono essere bianchi. E è una questione proprio di conoscenza. Viaggiate. Viaggiate. Allora, viaggiate, è la soluzione, ragazzi. Aprite la mente. Viaggiate. Perché tutto questo parte dalla paura del diverso, la xenofobia, una cosa anche un po' ancestrale che ci viene dai nostri anni. Faccio l'italiano. Anche i grifi. No, allora, redazione allargata, hai detto bene che nel frattempo su Twitch ci sta seguendo e Luca, che è l'autore del primo audio che avete sentito oggi, chiede cosa significa il tuo nome in SAF. Il mio nome vuol dire giustizia ed equità. Perfetto, bellissimo. Insieme, due cose nella stessa parola, bellissimo. Sì. In SAF. Sì. Ti facciamo sentire un ultimo audio di una docente del Politecnico di Milano, filosofa, che si chiama Virginia, è una nostra cara amica, e ci racconta questo che gli è capitato in Sardegna. Qualche anno fa eravamo in Sardegna e una signora anziana, chiaramente una signora che abitava in un paesino dell'entroterra sardo, che aveva visto poche o forse nessuna persona di colore nella sua vita, mi si avvicina e ci dice: ma signora, è suo questo bimbo, ma cosa mangiano lì? E diciamo, a questa domanda che mi ha completamente disorientato, in realtà ho iniziato, invece di arrabbiarmi, invece di magari appunto rispondere a tono, ho iniziato ad argomentare il perché appunto il mio figlio mangiasse esattamente le stesse cose che mangiavo io, come tutti i bambini. Quindi forse dobbiamo un po' armarci di questa pazienza, di questa capacità di non stancarci di argomentare e forse anche usare un po' di più l'arma dello humor. Lo humor. Anche questo. Scusate, se fosse che noi italiani abbiamo paura che ci finiscano gli immigrati il cibo, il tortellino, tutte queste cose tipiche. Così. È proprio così, perché ci sono certi esponenti politici che instillano la paura nelle persone dicendo: questi arrivano e ti porteranno via il via pane di bocca. Lo ripeti attraverso via? Il pane di bocca. E dopodiché lo ripeti nelle televisioni nazionali ogni sera durante la cena degli italiani per 5-6 anni, poi vai alle elezioni e guarda un po' i risultati. No, ma bisognerebbe dire, in realtà, è che tutte le seconde generazioni come me poi crescono sapendo fare i tortelloni, le crescentine, non gli ho questo nella tagli. Quindi, scusa, il pane di bocca non lo togliamo. Esatto, possiamo dire che in SAF non finirà i tortellini, anzi ne farà anche per noi della redazione di Off Topic. Per tutti. Perfetto, grazie mille Insaf di essere stata qui con noi a Off Topic e in bocca al lupo per la laurea. Grazie a voi e viva il lupo. Cosa mangi stasera Insaf al volo? Cosa mangi? Oddio, stasera penso che mi mangerò, devo pensare, forse un carpaccio di manzo, adesso ci penso. Buono. Ottimo. Ecco, ci rubano il manzo, ecco. Ci rubi il manzo, maledetta. Ciao Insaf. Grazie mille. Grazie ragazzi, è stato un piacere. Ciao. Allora ragazzi, velocissimi sui social, noi siamo su Instagram Off Topic 24, siamo su Twitch Off Topic 24, siamo su Telegram, la nostra redazione allargata, entrate, parlate, discutete, dateci feedback e critiche, Off Topic _ 24, siamo su Facebook Off Topic _ Radio 24. Mi sembrano tutti uguali, non so perché. Sì. Vabbè, cliccate qualcosa, veniteci a prendere da qualche parte. Cercateci. Noi vi salutiamo con queste audio di un nostro amico che è stato nostro ospite, il canale, e vi diamo appuntamento la prossima settimana. Ciao! Non voglio più sentire nessuno che dice che da noi ci sono tanti marocchini, perché io sono qua a Marrakech e qua è pieno. Dove sei tu? Marocchino. Marocchina. Tutti marocchini. Marocchini. La roba vergognosa. Ma come se fosse casa loro! Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.